Buonasera a tutti. Chi vi parla dagli studi di Radio Città Fujiko 103.1 è Claudia Mighty Mau. Siamo ritornate per l'undicesima stagione sulle note di ancora un'altra versione dell'Inno alla Gioia, sigla che ci contraddistingue dalla prima stagione. Siamo arrivate all'undicesima, all'inizio con la versione di Arancia Meccanica, poi le abbiamo trovate quelle folk, quelle orchestrali classiche, quelle suonate da dei ragazzini filippini, quella Tamarra Uns Uns, quella cantata da Peter Seeger, il cantante folk americano appunto, e questa è una rivisitazione di Ben Bolt, un arrangiamento fatto da questo musicista ed eseguita alla chitarra classica da Eduardo Diaz, e sarà questa versione un po' autunnale, un po' malinconica a farci compagnia in verità fino all'estate, cioè per questa undicesima edizione di Mighty FM, che per i più attenti sapranno già, i più attenti, che è dedicata ad un evento, il primo del suo genere, ma una continuazione, un'emanazione, uno sviluppo geograficamente diverso di una realtà che invece conosciamo molto bene, anche se non ci siamo in realtà mai andate personalmente, ma che conosciamo molto bene, ovvero quella del Sonar di Barcellona, festival internazionale di musica progressista, e anche incontri per addetti ai lavori su tecnologia e creatività, che si celebra a Barcellona appunto durante 3 giornate, a giugno, poi anche a luglio, mi sa che hanno cambiato le date, creato nel 94, e che è un evento veramente che è stato proprio l'avanguardia per il tipo di formato e per il focus appunto sulla musica elettronica, che non è, sì, è club culture ma non necessariamente, ed è un festival che ha ispirato tantissime altre realtà nel resto del mondo. In Italia Club to Club, a Spring Attitude, a Robot, soprattutto a casa nostra, che si svolgerà quest'anno il 25 e il 26 ottobre. E è appunto un festival che ha ottenuto negli anni grande prestigio per una grande attenzione nella curatela, ovvero nella scelta dei suoi artisti, ma anche per la sua natura giocosa e avanguardista appunto allo stesso tempo, nell'avere appunto un occhio di riguardo nei confronti della sperimentazione. E quindi dal 94, sono 25 anni, hanno deciso, come abbiamo scritto in fretta e furia sul nostro evento di presentazione, di allargarsi dall'altro lato del Mediterraneo, nella sua fattispecie il mare Egeo, per andare a toccare le sponde di Atene. E quindi la prima edizione di Sonar Athens, ovvero Sonar Athenai, credo si dica, si svolgerà sabato 11 e 12 ottobre. E quando Alberto e Giovanni mi hanno detto: ehi, anzi Alberto, c'è Sonar a Atene, che facciamo, namo? Io ovviamente ho detto namo. Chi ci conosce sa che amiamo moltissimo l'alfabeto e l'ordine alfabetico, sebbene abbiamo anche postato nell'evento Facebook dedicato alla trasmissione il timetable con tutte le varie sale, che sono 3, club, hall e lab, della Gasi Music Hall, il quartiere appunto di Gasi, quartiere insomma un mezzo industriale appunto popolato da gasometri eccetera, e abbiamo deciso di mantenere l'ordine alfabetico, se non altro perché dopo lo so che mi incarto se dico c'è questo giorno a quest'ora e poi contemporaneamente nella seconda sala c'è quest'altro, faccio un gran casino, siccome non ne ho bisogno perché sono già stremata dalla vita e febbricitante. Ancora una volta i primi in ordine alfabetico sono gli Acid Arab, che abbiamo avuto modo di vedere un paio di volte sia a Roma che a Torino per il Today's Festival in questo caso. E poi c'è questa circostanza che dove ci sono gli Acid Arab ci sono anche i Red Axis, infatti li sentiremo stasera e nella stessa sera, cioè questo focus sulla musica diciamo del Maghreb o del Medio Oriente, e appunto in particolare alla musica nordafricana si sono dedicati questo duo parigino. Il pezzo che stiamo ascoltando si chiama Afla, versione strumentale tratta dal loro primo EP del 2015, Zajirat El Maghreb, che non significa altro che Algeri in Marocco. e che poi invece nella sua versione cantata è stato incluso nel loro primo ed unico album di debutto dell'anno dopo. Si tratta di Guido Minsky e Hervé Carvalho. E anche l'avevo sottolineato l'altra volta che avevamo suonato la loro musica, che molto puntualmente il loro album si chiama Musique de France, perché poi appunto è la musica meticcia, la musica degli immigrati, la musica delle banlieue, la musica delle altre popolazioni, soprattutto al Nord Africa, per causa della colonizzazione francese, che è appunto è diventata la musica francese, come anche la nazionale di calcio riflette appunto tutte le sue componenti multietniche. E l'ordine alfabetico, quindi, dopo gli Arab, ci fa ascoltare un nome insomma abbastanza autorevole della scena del clubbing, ovvero Alan Fitzpatrick, Fitzpatrick ha cominciato a pubblicare EP nel 2007, c'è una schiera veramente infinita con delle release almeno 3-4, vedo adesso nel 2009 addirittura ne vedo tipo quasi 10 all'anno, molto prolifico. E anche, come spesso succede, anche autore di diversi remix anche per Carl Cox, Timo Mas, chi se lo ricorda? Adam Beyer, Dub Spica. E infatti abbiamo trovato due pubblicazioni recenti, insomma degli ultimi due anni, e abbiamo scelto questa Stand Up, tratta dal suo album di quest'anno che si chiama The Awakening, anche detto appunto 11-11 The Awakening. Per chi non lo sapesse, le 11:11, come anche cantata dalla bellissima canzone di Rufus Wainwright, sono un po' insomma un orario che porta fortuna. Se tu apri gli occhi oppure guardi l'ora quando sono le 11:11, ti porta bene. Insomma, io ci bado, però vabbè. Ovviamente si sa che i pezzi, insomma, elettronici del clubbing sono sempre molto lunghi e molto corposi, e si sa sempre che noi facciamo dei tagli e cuci feroci e che a volte abbiamo sempre dei problemi a decidere anche nella scelta dei pezzi. Ed è per questo che nel caso della prossima artista, ovvero la brasiliana DJ Anna, abbiamo scelto di mixare insieme, insomma, così come è venuto fuori, il pezzo che comunque l'ha fatta conoscere e apprezzare dagli addetti ai lavori e dai danzerini tutti, ovvero Hidden Beauties, uscita per la collezione Spiker 101 della Compact del 2018, seguito poi da una collaborazione con Miss Kittin con il pezzo Forever Ravers invece di quest'anno. Anna. Una trasmissione che per chi non sopporta chi parla troppo, ovvero io di norma, verrà appunto apprezzata perché c'è poco da parlare, anzi c'è da perdersi proprio in questi suoni e questi ritmi. Che sì, ovviamente possiamo dare delle note biografiche. Possiamo dire che Anna ha sempre avuto un intenso amore per la musica e che ha cominciato a suonare nei club del suo paese fin dall'età di 15 anni e quindi sviluppando veramente un'abilità impressionante alla console. E quindi un'altra rising star, anzi ormai già bella sorta nel firmamento dei DJ, comprende uomini e donne, ultimamente finalmente si dà molta più rilievo anche alla maestria delle femmine, che in molti casi, anche perché poi sono anche carine, ok, ma soprattutto perché sono brave. Infatti ricordo di quando Resident Advisor, ecco che arriva Miss Kittin, Resident Advisor si è rifiutato di fare una classifica, cioè di pubblicare la classifica dei lettori, perché non trovava giusto e assolutamente appunto non rispondente alla realtà che non ci fossero nomi di donne nelle alte posizioni, perché di solito sono i maschi che ascoltano l'elettronica e votano i maschi, e quindi per un anno si sono rifiutati di pubblicare la Reader's Poll. Insomma, c'è chi è rimasto deluso da questa combo che si aspettava molto di più. Virgolette, carina è, ma mi ha deluso, mi dissero. però penso di ricordare che Anna suonerà tipo alle 4:30 di notte, ci sembra un orario giusto della notte, appunto tra venerdì e sabato. È vero che forse siamo arrivati un po' lunghe, perché magari per organizzarsi a questa trasferta ci voleva qualche settimana in più, ma il nuovo palinsesto di Radio Città Fujiko è partito proprio da questa settimana, e quindi anche noi, insomma, per impegni non è che potevamo iniziare prima noi, prima che ci fosse, insomma, la presentazione del palinsesto, no? Però secondo me, insomma, un volo Ryanair, cioè l'11 mattina, quello che prendo io, è comodissimo, perché comunque sì, è presto ma non prestissimo, cioè tutta la giornata ci si prepara e poi si può fare, insomma, un weekend, un po' ripigliarsi e rimanere a visitare questa bellissima città che ho avuto appunto modo di vedere, visitare abbastanza qualche anno fa per diversi giorni. È veramente tutto un ribollire, a parte super politica, si sente proprio quest'anima di sinistra popolare, anarchica, degli studenti, e quindi che porta con sé tanta musica sempre, tanta anche street art in molti posti, anche al quartiere Keramiko e Gasi, dove ci sono appunto tanti locali e anche appunto dove si svolgerà il festival. Ed è per questo che ovviamente al Festival Atene ci saranno anche dei musicisti greci, oltre a dei grandissimi nomi internazionali, e uno di loro, lo stiamo ascoltando adesso, è Blackout. Attivo da solo un paio d'anni, elettronica fredda, One Man Cold Electronic Project, suoni appunto ispirati dalle strade di Atene. Questo pezzo in particolare è tratto dal suo album che si chiama Mavrophos, ovvero Luce Nera, e questo pezzo si chiama Psichiki Diataraki, ovvero disturbo mentale. E quindi se qualcuno all'ascolto volesse fare, insomma, così una decisione last minute, mi sembra che il biglietto per le due serate costi meno di 80 euro, poi per il resto mangiare e dormire sono ancora più, insomma, abbordabili che qua. Appunto, in occasione dell'entusiasmo, appunto, questa proposta così veramente estemporanea da parte di Albe, c'è cioè, suona l'Atene, presto andiamo, e ho scoperto ieri che ciò mi impedirà di andare a un concerto lungamente desiderato, ovvero quello dei Beirut. Tutt'altra musica, ma si sa che insomma Mighty FM ha un range di gusti musicali molto molto ampio. Sui Beirut abbiamo fatto una puntata dedicata a Gallipoli, il loro ultimo album, dovevano suonare a Milano, hanno rimandato il concerto, io potevo andarci bella bella il 12 ottobre, e invece niente, ho deciso di fare questa trasferta greca, e sull'entusiasmo di questa cosa ho scritto ad una mia amica greco-italiana di nascita di Salonicco, Danai, e l'ho detto: ma c'è un equivalente greco per dire daje? E c'è, e si dice dose con la O bene aperta, e significa proprio dai, esattamente, ed è usata nello stesso senso nostro. Ma siamo arrivati ad un bad boy della scena elettronica, un pazzarello tamarro abbastanza, ovvero Alexander Rida, ovvero Boys Noize. Es ist dunkel im Club, Augen funkeln nur schwarze. L'abbiamo visto all'Astro Festival, e a quel punto aveva la sua ultima pubblicazione, era l'album Mayday. E invece ci stiamo ascoltando il penultimo singolo, più o meno, cioè, ovvero uno dei tre singoli usciti nel 2018, ovvero Disco Inferno, Voice Noise featuring Marteria e Haftbefehl. Mentre appunto cerco sempre, insomma, sempre le ultime pubblicazioni, anche perché tu puoi conoscere un artista ed averlo apprezzato per quello che ha fatto, però se tu lo vai a vedere adesso devi insomma sapere cos'è che fa adesso, cos'è che propone adesso al suo pubblico. Infatti sono andata a cercare, cerco sempre le ultime release, ho trovato nel 2019 questa Midnight Hour con Skrillex e Ty Dolla Sign, fa veramente cagare, quindi ci ascoltiamo Disco Inferno. Di Boys Noize si sa che ha iniziato molto molto giovane, subito lanciato nell'era d'oro dell'Electro Clash, quando suonava insieme a Felix Dauskat e DJL con l'alias di Kid Alex. E siamo passati invece a un nome di casa nostra, ovvero Caterina Barbieri. Non l'abbiamo mai vista dal vivo, abbiamo assistito il suo DJ set, credo a Palazzo Renzo, per una delle serate del Robot. O no? Ormai i ricordi si sovrappongono, si confondono. La sua ultima pubblicazione è un album. Ecstatic Computation. Come abbiamo detto prima, come diciamo sempre, musica elettronica in senso ampio. Attenzione alla sperimentazione, attenzione alle nuove tecnologie, ovviamente, attenzione anche alla componente visiva visuale. Anche in questo caso abbiamo voluto scegliere due pezzi, anche perché questo prima, Spine of Desire, era particolarmente breve, e ci abbiamo attaccato un pezzo di un'altra traccia, ovvero Closest Approach to Your Orbit. Italiana di base a Berlino, come tanti e tanti prima, durante e dopo di lei, è appunto una compositrice che esplora temi collegati all'intelligenza artificiale. E nel suo lavoro esplora gli effetti psicofisici della ripetizione delle operazioni appunto basate su un modello, su un pattern ripetitivo. Ricercando quindi il potenziale polifonico e poliritmico dei sequencers per disegnare delle complesse geometrie nel tempo e nello spazio. Ovviamente sto leggendo dal suo sito, cosa resa difficilissima dal fatto che c'è uno sfondo colorato cangiante, appunto che passa dal viola al verde al rosso al blu, e che il testo è scritto molto piccolo e in azzurro, molto early internet. Vi ricordiamo, per chi si fosse messo all'ascolto per sbaglio questa sera, che siete appunto all'ascolto di Mighty FM, undicesima stagione dedicata al Sonar Athens, ovvero prima edizione greca del famoso festival barcellonese. 11 e 12 ottobre, prossimi venturi. Siamo arrivati ad una delle colonne portanti della Compact di Colonia, ovvero DJ Koze, ovvero Steven Cozalla. Non so perché stavo abbassando la mia voce invece che la musica. Succede. L'ultima sua produzione, un album molto corposo, Knock Knock, del 2018, che contiene un singolone con la voce di Roisin Murphy. Ma praticamente l'unico pezzo che ci piace a noi, mentre in passato insomma ci piaceva un po' di più, è questo pezzo che stiamo ascoltando, che è praticamente uguale a quello di un disco precedente che vedeva la partecipazione di Dan Snaith, ovvero Caribou Daphne. E quando abbiamo visto i titoli e tutti i vari featuring, che ce ne sono tantissimi, quando abbiamo visto questo featuring abbiamo detto: beh, questo ci deve piacere, perché se no siamo messi male. E infatti c'è la presenza di Manon Le Taff, DJ produttore nordirlandese che noi amiamo molto come autore e come remixer, e questo pezzo si chiama Planet Haze. Un coetaneo nato nel 72, quindi insomma ormai passa per grande vecchio della scena, che comincia insomma a muovere i primi passi all'inizio degli anni 90 nella scena musicale di Amburgo, iniziando come rapper e DJ per appunto gruppi hip hop della sua città. e ha raggiunto nel 91 il secondo posto nel campionato tedesco del DMC, che è il campionato dei migliori DJ, scratcher, eccetera. E addirittura l'album che contiene questo pezzo, Knock Knock, è arrivato al terzo posto nella classifica dei 50 migliori album del 2018 per Pitchfork, che di solito non caga molto l'elettronica, tantomeno la musica europea. L'album precedente, dove c'era un pezzo con Dan Snaith, ma anche un altro pezzo molto bello con Apparat, si chiamava Amygdala, del 2013. Di album veri e propri ne ha fatti solo tre, ma ovviamente numerosi EP. E remix per Herbert, Moderat, Mounkimby, Manole Taff stesso, infatti il bellissimo remix di Energy Flow. Bellissimo remix di For You, Michael Mayer e Joe Goddard degli Hot Chip. Remix dei Zwei Raum Wohnung, che tanto ci piacevano all'inizio di questo secolo e millennio. E anche dei Gorillaz. E poi è famoso per essere appunto un simpatico burlone, simpaticone, sempre delle facce molto simpatiche, dei copricapi molto bizzarri. E sfuma appunto Planet Haze di DJ Koze, collaborazione con Manole Taff, e passiamo a un altro eroe di Noantri, quindi ho sbagliato, non c'era solo Caterina Barbieri ma c'è anche Enrico San Giuliano from Reggio Emilia. Uno di quei casi che vedi un nome italiano ma non dai per scontato che sia italiano, perché dici ma boh, insomma boh, siamo sempre abituati a essere così ossequiosi nei confronti di qualsiasi cosa sia straniera. E quindi non pensare che magari può essere figlio di emigranti, latinoamericano. E invece no, Reggio Emilia, questo pezzo è bellissimo. Anche in questo caso ne abbiamo scelti due, tratto dal suo ultimo album dell'anno scorso, Biomorph, si chiama Generative Model, che sarà poi seguito da un po' di A Further Existence. Secondo me potrebbe essere un po' paragonato a quello che fa o Max Cooper, producer, performer e sound designer, che ha iniziato appunto come ingegnere del suono e poi ha cominciato a produrre musica elettronica negli anni 90. Resident Advisor dice: l'Italia è stato il suo parco giochi con l'esplosione della scena dei rave illegali, dove insomma è venuto fuori, e poi il riconoscimento internazionale nel 2015. Gran perfezionista e gran produttore. E appunto in realtà Biomorph è il suo album di debutto sulla, come si dice, sulla lunga distanza. È una produzione in quattro parti, che è la sua interpretazione musicale personale dei quattro stadi dell'evoluzione. Insomma, decisamente ad un ritmo più sostenuto, a un suono un po' più cupo. San Giuliano, A Further Existence, credo che sia il pezzo di chiusura di Biomorph. È vero, in alcuni casi abbiamo lasciato i pezzi molto lunghi, ne abbiamo messi due, in altri casi abbiamo un po' tirato via, soprattutto nel caso di artisti già ben conosciuti, insomma passati diverse volte qui a Maite FM. Questa che ascoltiamo adesso è stata la canzone, il pezzo in cui ho annunciato al mondo che era in trepidante attesa che sarebbe ricominciato Maite FM, ovvero si tratta di una giovane ragazza inglese dal nome Hai, ovvero H-A-A-I, dove la H-A-A sono maiuscole e la I è minuscola, come dico da un po' di anni a questa parte. Ultimamente molto importante anche la grafia dei gruppi, dei pezzi, dei cantanti, dei progetti musicali, anche perché passiamo il 90% del nostro tempo di veglia davanti a un qualcosa che guardiamo, leggiamo. E addirittura, appunto, anche lei è emersa ed esplosa, vincitrice con il miglior Essential Mix del 2018. Ovvero, insomma, un grossissimo, insomma, riconoscimento, ovvero Essential Mix per BBC Radio 1, quindi Essential Mix of the Year, quindi campionessa in carica, e quindi insomma la sua fama è cresciuta in modo esponenziale e adesso appunto suona in festival, va a serata in tutto il mondo. Grande, grande appassionata di musica thailandese e di e turca, particolarmente nella declinazione funk, funk turco e thailandese, cioè un trippone proprio. Infatti ho detto trippone e cosa leggo? Tripped Out Psychedelic Records e dischi di musica percussiva nigeriana e keniota o keniana. E tipo ogni sabato fa dei set di 6 ore. E quindi appunto dall'anno scorso ha cominciato a suonare tutti i festival più grandi, da Glastonbury, Nuit Sonore, Parklife, Melt, Field Day. E il pezzo che stiamo ascoltando è la title track di un EP del 2018 appunto, che si chiama Motorik Voodoo Bush Doof Music. Ma chissà come sarà venuta fuori questa idea di fare il Sonar ad Atene. Ovviamente doveva esserci un gruppo dei producer, dei produttori di eventi, dei promoter, dei locali, qualcuno che magari erano tipo zoccolo duro, grandi fan del Sonar, magari da anni, rapporti intercorsi con il Sonar di Barcellona, perché non è che il Sonar di Barcellona decide di andare a colonizzare così una città, ma appunto deve esserci chi magari ha un po' corteggiato il Sonar dopo 25 anni a fare un'altra edizione in un'altra città, come spesso succede. Addirittura anche adesso il Primavera va oltreoceano a Los Angeles, e quindi Sonar Atene, la edizione greca del festival madre, perché sempre madre. E la presentazione di questo festival sul sito, che non ho detto ma è abbastanza prevedibile, che si chiami sonarathens.gr, dice: Atene è una delle più vecchie città europee, la culla della democrazia e del teatro, e con una storia di promozione delle arti e della filosofia che parte dal V secolo a.C. Quindi ovviamente quale posto più indicato, ordine alfabetico, ci porta ad un duo che noi amiamo molto, soprattutto per un pezzo che era un remix di DJ Tennis spettacolare. Sono gli austriaci Anna Müller e Paul Wallner, si chiamano HVOB, che è un acronimo che sta per Her Voice Over Boys, cioè la sua voce che sovrasta i ragazzi. Un gruppo che ha attirato l'attenzione di Oliver Kolecki, appunto producer e DJ, qui abbiamo diversi pezzi. In attività dal 2012, primo album di debutto nel 2013. E l'ultimo album del 2019 si chiama Rocco. E anche in questo caso abbiamo scelto due pezzi che rappresentano un po' le due anime di questo gruppo, di questo disco, perché sono dei pezzi molto, molto calmi, molto lenti, con una voce che ricorda anche un po' quella della altrettanto austriaca Soppen Skin. E pezzi invece più animati. Questo primo si chiama Butter o Butter o Burro. come avevo scritto qualche giorno fa, diffondendo appunto questa notizia che tutti aspettavano con trepidazione della prima puntata di Mighty FM sul Sonar di Atene, prima si ascolta la radio. E intanto ci si prepara, e intanto ci si scalda, e intanto siamo passati a un altro pezzo degli HVOB, ovvero Zinc, e poi si va alla roboterie perché ricomincia la stagione e stasera c'è la prima serata della nuova stagione danzereccia della roboterie, di cui noi possiamo dire, insomma, senza tema di essere smentite, che devi essere parte di questa famiglia per serata. Ingresso gratuito con tessera. Infatti io che sono arrivata praticamente strisciando e febbricitante, poi succede sempre che, cioè, vorrei morire prima di andare in onda, e poi succede sempre che un po' mi ringalluzzisco ascoltandomi, non ascoltandomi, ascoltandomi la musica che passa. Comunque, senza stare a dire, insomma, tutti gli orari, ho detto gli ambienti sono tre: Sonar Club, Sonar Hall e Sonar Lab. Diciamo che ad un'occhiata veloce, la Sonar Hall si presuppone che sia appunto lo spazio più grande, già dal nome ma anche dai nomi che suonano. Prima sera, insomma, gli highlights sono John Hopkins, Boys Noize e Anna, mentre la seconda notte saranno Patrick Topping, Ray Condit, Enrico San Giuliano, e siamo passati a John Prezzemolino Talabot. Direi che negli ultimi tempi un po' meno Prezzemolino, ma c'è stato un periodo in cui era veramente ovunque. Abbiamo sempre apprezzato, e in tempi non sospetti, perché spesso succede così, abbiamo dedicato una puntata nel 2012 al suo album d'esordio e tuttora unico album, ovvero Finn. E poi l'abbiamo visto svariate volte e anche scarrozzato in macchina, la mia funzione di driver del robot. Racconto sempre questa barzelletta: c'eravamo io, i Mod Selector e John Talabot dentro una 500. Vero nome Oriol Riverola, catalano doc. Che ha iniziato pubblicando diversi EP per la Permanent Vacation e poi nella sua etichetta, ovvero Hivern Disc, e questo stesso pezzo che stiamo ascoltando, che è l'ultima produzione in senso cronologico del 2019, si chiama HVN, quindi Hivern C/D, che vede appunto sulla facciata C, che non è A ma è C, questo pezzo di John Talabot, e sulla facciata D o viceversa invece un pezzo di Kija. E questo pezzo si chiama Immediate Crash Alert. realtà un secondo album c'è, ma è sotto Talabo Man, ovvero la collaborazione con Alex Bowman. E poi, beh, sempre collaborazioni dal suo sodale Pional. Abbiamo una foto molto carina di loro insieme al Q di Milano durante l'Elita Festival. E nel gennaio 2018 anche lui, come tantissimi DJ e producer, si è dato alla radiofonia per la NTS Radio, dove trasmettono anche i Maunkimbi, con una trasmissione mensile dal titolo Music for Days Like This. Insomma, sentirselo in cuffia a volume abbastanza alto è un bel viaggetto. Immediate Crash Alert, John Talabot, tratto dal suo ultimo singolo a doppia firma John Talabot e Kijia, dal titolo HVNC/D. Insomma, per questa prima edizione di Sonar di Atene hanno chiamato, insomma, dei nomi che, come, non so, tu chi chiameresti come padrino di battesimo per un festival di musica elettronica? Colui che ha inventato questo suono che è solo suo e tutto suo. Colui che doveva fare un DJ set il 5 ottobre al Locomotive e che l'ha cancellato. Lui che si è fatto una gran fama come ingegnere del suono, quindi nel suo lavoro proprio in studio, e poi si è dato alle sue produzioni, e infatti poi ha cominciato da un'altra parte della musica, cioè suonando con Imogen Heap, partecipando ai dischi Brian Eno e dei Coldplay, noi l'abbiamo visto svariatissime volte, a un certo punto, non so se era a Roma, ho aspettato che lasciasse la console, io ho detto guarda che ci abbiamo davvero bisogno di un disco nuovo, cioè quando è che arriva? E lui mi ha detto aspetta, arriverà. E così è stato. Il 4 maggio 2018 è uscito Singularity. Non l'abbiamo ancora detto che è John Hopkins, ma devo dire che questo album non mi ha conquistato come l'immenso Immunity del 2013. Avevamo ascoltato diversi pezzi in occasione dell'Astro Festival e adesso ci ascoltiamo un terzo abbondante di un pezzo che dura oltre 10 minuti, ovvero Everything Connected. E così sfuma Everything Connected, John Hopkins, che anche lì farà un DJ set, in quanto tutti quelli che fanno live c'è scritto, tipo Acid Arab Live, di quelli che abbiamo sentito finora, Blackout Live, HVOB. Questo è un pezzo che ci piace un sacco e lo mettiamo anche nei nostri DJ set. È un pezzo, un singolo del 2018 che sarà seguito poi invece da un altro pezzo di un singolo invece di quest'anno di un artista a cui piace collaborare, si trova bene a lavorare con gli altri. E in questo caso si è trovato bene a lavorare con Tiga. Questo pezzo si chiama Hull. E lui si chiama Rune Riley Kölsch, danese. Tipo 19 singoli a partire dal 2010 e 3 album 2013, 15, 17, uno che fa gli album negli anni dispari come gli Arcade Fire, almeno fino a un po' di tempo fa. Il primo album si chiama 1977, il secondo 1983, il terzo 1989, quindi lassi di 6 anni, chissà che significato avrà nella sua biografia. Lui che è nato nel 77, vabbè, quindi sicuramente il primo sappiamo perché. Poi 6 anni e 12 anni. E arriva ai nostri mix casalinghi il secondo pezzo dell'ultimo singolo, che è un'altra collaborazione con Sasha. Sembrava che l'ho fatto apposta o che ci sia stato un errore nella matrice. No, era così, un microsecondo di vuoto e silenzio. Sasha, ce lo ricordiamo, è DJ biondino sulla console del cassero. Piccolo era. E questo pezzo si chiama The Lights. Siete sempre all'ascolto di Mighty FM, chi vi parla è Claudia Mighty Mau dagli studi di Radio Città Fujiko 103.1. Per questa prima puntata della nuova stagione di Mighty FM, all'undicesima stagione, dopo 9 gloriose stagioni a Radio Kairos presso il TPO, l'anno scorso profughi, anche noi, siamo stati accolti da Radio Città Fujiko. E adesso andiamo avanti finché l'energia e la passione. Ce lo permetteranno. E stiamo parlando appunto del Sonar 2019 Atene Music Creativity and Technology 11-12 ottobre, prima edizione. Leggendo appunto la scheda di presentazione sul sito sonarathens.gr. Oggi, con la sua popolazione di 4 milioni e mezzo di abitanti, Atene è una città votata al progresso, una metropolis cosmopolita con una vibrante scena creativa underground che si unisce ad attrazioni famose in tutto il mondo come l'Acropoli con il suo Partenone e guarda caso rimaniamo in termini greci con Aphelion. Aphelion è la title track dell'EP che si chiama Aphelion del 2019 ad opera di una DJ e producer di cui abbiamo diversi pezzi, ovvero La Fleur, svedese di base a Berlino, ha una sua etichetta che si chiama Power Plant Records. E guarda caso la sua scheda di Resident Advisor dice che è venuta fuori con un pezzo in collaborazione con Sasha. E poi ha debuttato anche lei nella Spiker Series della Compact. Poi tutto ciò confermato da questa ultima release, Aphelion. Libertà creativa, una profonda connessione con l'ambiente che la circonda sono stati il carburante per le imprese artistiche di Sanna Lafleur Engdahl, nata nella città svedese di Örebro. Weekend passati a giocare e esplorare le foreste intorno a casa sua, insieme a lezioni di piano, flauto, balletto e poi canto. Poi addirittura poi si è laureata con un master, cioè ha preso il master in scienze farmaceutiche, ma poi si è dedicata alla musica a tempo pieno. We'll be right back. Succede sempre a Mighty FM, per motivi di tempo uniti a motivi di gusto, noi non suoniamo tutto quello che, anzi a volte troppo, perché magari ci piacciono troppe cose, ma non suoniamo tutto quello che c'è, ma lasciamo fuori quello che non ci convince molto. In questo caso abbiamo lasciato fuori CJ Jeff, Foreign Beggars. Ma vogliamo invece parlare di questo progetto che poi sarà un back to back set che aprirà una delle serate, mi pare, ma che vi importa tanto se non ci venite, ovvero Her with Fall. Una collaborazione unica, ci dice il sito. Her è un progetto musicale, ovvero una piattaforma per l'empowering, per dare forza e potere e visibilità alle donne nell'industria musicale, e che punta a supportare e promuovere sia DJ donne greche che internazionale. E invece Fo è una figura leader nella musica dance greca già da tanti anni, e che ha suonato, appunto, una DJ che ha suonato in tutti i principali club del paese. E loro due si uniranno anche a Virgin, scritto anche questo, appunto, solo con le consonanti, come nel caso di tanti artisti, VRGN, che è un artista emergente che ha cominciato, insomma, a suonare poco più di un anno fa. E quindi Her with Foe da una parte e Virgin dall'altra, appunto un evento per dare visibilità alle donne DJ, cosa che in un paese, insomma, del sud dell'Europa, dove è obiettivo che sia più presente, insomma, il machismo, il sessismo, è un po' una diffidenza nei riguardi di ciò che una donna può fare o può saper fare. Ci stiamo ascoltando questo bellissimo pezzo di un'altra donna, anzi, che sembrerebbe avere un'identità di genere molto molto fluida, ovvero Shakira Benavides, anche lei barcellonese, Lu, che opera con il nome d'arte di Lucius Works Here. Che si esibirà con i visual di Oxlab, grande conoscitore e conoscitrice della storia della musica, sia popolare che dell'avanguardia musicale, e che, qui usano i pronomi femminili, ha concentrato il suo interesse sui suoni dei compositori, ma anche sulle personalità non necessariamente musicali del XIX e XX secolo. Non c'è scritto, c'è scritto solo XIX, ma è un no, perché c'è Virginia Woolf, per dire. E questo ha portato alla produzione di un album detenido nel tempo, ovvero congelato, bloccato nel tempo, dedicato appunto a intellettuali ed artisti del XIX e XX secolo come Camille Claudel, Claude Debussy, Virginia Woolf, Erik Satie, Lewis Carroll, Emma Goldman e Nikola Tesla. Ed è proprio questo pezzo che è dedicato a Nikola Tesla, figura molto molto affascinante, inventore visionario ostacolato, perché forse appunto era troppo avanti, anche su diversi film che ne hanno raccontato la storia, poi indirettamente ostacolato da Thomas Edison. È interpretato in un film, non mi ricordo quale dei due, perché erano usciti contemporaneamente, interpretato da David Bowie. E questo pezzo si chiama Energia, Frequenza e Vibrazione. e anche i suoi pezzi sono appunto field recordings, quindi registrazioni sul campo. C'è un pezzo su SoundCloud tipo la Rambla dei Gitani, si sentono appunto solo rumori, vociare, e poi c'è un altro pezzo che si chiama Pietre Piatte nella Rambla della Cagnada di Mignano, suoni, rumori. E anzi, se volete andare sulla sua pagina SoundCloud, la pubblicazione più recente di un mese fa è proprio il mix per Sonar Athens 2019, Lucius Works Here. Cambiamo decisamente umore. E sono quei tamarroni dei Mod Selector, appunto, che finalmente hanno detto Apparat, ok, buona, torniamo a fare le nostre cose, tu continua a fare le tue. E hanno pubblicato un nuovo disco, Who Else? Chi altri? Abbiamo ascoltato un paio di pezzi nella trasmissione dedicata, in una delle trasmissioni dedicate al Primavera Sound di Porto. Non ce ne siamo goduti tantissimo, forse le circostanze, il tipo di palco, il tipo di selciato. Però visual molto belli, e questo che è il pezzo di apertura del disco One United Power, credo che sia quello con i visual con tutte le bandiere del mondo, non molto originale ma molto efficace a livello di animazione e colore. Gernot Bronsert e Sebastian Zary, protagonisti di un documentario molto molto bello, e che noi abbiamo conosciuto veramente all'inizio, cioè nel 2005, Hello Mom, comprato il negozio mitico Saturn di Alexanderplatz. Abbiamo visto suonare al Maria Am Ostbahnhof Club, che non esiste più, con Ellen Allen, che sniffavano tranquillamente al lato palco in piena vista. Lui, uno dei due, non mi ricordo se sia Gernot o Sebastian, sembra appunto un scaricatore turco che fuma 2000 sigarette al minuto. Da ricordare, vabbè, non solo la collaborazione con Apparat col nome Moderat, ma anche il loro show audiovisual con Sirius Mo, che è anche lui un musicista tedesco molto molto bravo, molto molto pazzerello, che ha fatto le produzioni musicali molto belle, ma soprattutto è un visual artist e è l'autore di tutte le copertine dei Moderat, uno stile che ricorda un attimo Steve Burns, ma comunque degli artwork molto belli, sono opera sua. Infatti una volta allo Spazio Novecento abbiamo visto in questo show, dove c'erano loro tre dietro la console, Sirius Mo si occupava dei visual, e poi anche appunto pezzi fatti con Tom York. E c'è anche un pezzo nel disco che vede la partecipazione di quel pazzo di DJ musicista lettone, anche se anche un po' ucraino, ma lui si definisce lettone, che è Tommy Cash, dei video pazzeschi. E siamo tornati in terra greca con un gruppo di Salonicco, nato nel 2016, un duo formato da Grigoris Kordellas e Iakovos Vogiatsoglou, e si chiama Opioid Slot Machine. Grande cupezza. Questo pezzo si chiama Anchialin Pool, tratto dall'Anchialin Pool EP. Industrial Noise, IBM. C'è una foto di uno con un passamontagna. E li fanno suonare il venerdì alle 9 di sera. Che sì, forse è meglio. Anchialin Pool, The Opioid Slot Machine. Anchialin Pool è una roba di chimica, un qualcosa che esiste. It's a thing. Ma arriviamo a una delle DJ più carine che appunto abbia conosciuto e trasportato e anche ho ricevuto, insomma, i suoi sfoghi riguardo a quanto le ha dato fastidio fare due boiler room nella sua vita, perché c'era proprio la gente che stava addosso, tipi che hanno staccato i cavi dei CDJ. È proprio invasione fisica, che è quella lì l'idea, però magari a una può anche dare fastidio, no? E infatti ha fatto così anche quando ha suonato al Robot, alla GAM l'anno scorso. Io ero la sua driver e appunto c'era uno che ballava e batteva il tempo con la mano sulla console, e lei gli ha dovuto dire 5 volte: guarda, non lo fare perché mi sballi il beat che ho nella testa, e cioè non riesco a sentire per mixare, sai com'è, sto lavorando. E lei è Orla. Nata in un paesino del nord Irlanda, si trasferisce a Liverpool dove nel 2012, dove adesso tipo ha una, è resident di una seratona molto popolare e che l'ha portata a pubblicare diversi EP sulla Hot Flush di Scuba e dare vita alla sua etichetta Deep Sea Frequency. E cercando, perché noi abbiamo suonato appunto un suo pezzo nella trasmissione dedicata al Robot l'anno scorso, e ho trovato anche che ha fatto un pezzo che si chiama Kyoto Dance. Chi mi conosce sa che insomma speravo proprio di mettere quel pezzo, perché insomma, e invece no, non mi è piaciuto abbastanza. E allora invece ho trovato questo pezzo che mi piace molto di più, che appunto fa parte di una compilation della Hot Flush. Si chiama Hot Flush on the Floor del 2018, è stato il primo, adesso sono già 2-3 volumi, e questo pezzo si chiama BWUW, un acronimo che non sapremo mai cosa significa. Anche lei, Orla, è un nome molto comune, nome irlandese molto comune, ma anche qui graficamente si presenta con Or, due punti, La. E anche lei ha una trasmissione radio bimestrale su NTS Radio. È anche vissuto, è anche vinto il premio come DJ emergente, insomma, rivelazione per DJ Mag, se non sappiamo l'anno. Vabbè dai, almeno 8 donne ci sono in questo festival. E tornando appunto alla scheda di presentazione del festival, insomma, il fatto che Atene sia una metropoli di 4 milioni e mezzo di abitanti, dove c'è una scena molto vivace, una scena creativa underground, e anche il fatto che sia una delle città più famose del mondo per i suoi monumenti rende appunto la città come la sede proprio più indicata per il Sonar Festival, ovvero l'evento culturale innovativo che fin dal 1994 appunto ha portato alla luce tipo di elettronica più sperimentale, appunto avanguardia musicale presentata ad un pubblico mondiale. E siamo arrivati a Patrick Topping. DJ britannico dalla produzione piuttosto eclettica, tanto eclettica che appunto produzioni dello stesso anno sono molto diverse, una proprio no e questa invece sì. Un po' al limite col maraglio andante, cioè, ha remixato Calvin Harris con Dua Lipa, ha collaborato con Green Velvet in due pezzi e EP, e questo qui è la title track della sua ultima release del 2019, Watch What You're Doing. Infatti devo dire che insomma nella line-up di questo Sonar Atene insomma si cerca un po' di raccogliere anche insomma nella parte un po' meno raffinata, se vogliamo, della club scene. Patrick Topping ha iniziato a suonare a Newcastle, da dove viene, e poi infatti ha suonato a festival di un certo tipo, di una certa massa, come Tomorrowland e Awakenings, quindi diciamo hard clubbing ma non proprio insomma altissimo livello creativo e artistico, secondo me. Si sa che Mete FM è super personale, soggettiva e autistica. Però questo pezzo ci piace anche perché in questo passaggio ci ricorda tantissimo uno dei nostri pezzi preferiti di Boys Noize, ovvero Ich Are You, con un video fighissimo dove sono i protagonisti i tasti di una tastiera che si modellano e formano di tutto. Le assomiglia così tanto al limite del plagio. Patrick Topping che occupa lo stesso slot, la stessa sala di John Hopkins il giorno prima. Ma siamo passati appunto a uno di quegli altri nomi che insomma raccatta su tutto, ovvero Paul Kalkbrenner, che ho visto solo una volta annoiandomi abbastanza, non avrei mai deciso di andare a spendere dei soldi di Kalkbrenner. Una cara amica mi devolvette, insomma c'aveva un biglietto in più, ecco, e siamo andati sotto la pioggia, una roba sì anche fisicamente abbastanza probante, al palazzetto all'Unipol a Casalecchio. Si chiama ancora Unipol? No, vero? No, non lo so. Però Kalkbrenner, nato a Lipsia, cresciuto a Lichtenberg, Berlino, dove abita la nostra cara amica Marta, ha iniziato a suonare nella prima metà degli anni 90 a Berlino insieme a Sascha Funke. Sascha Funke, oggetto di grossissimi gossip quella volta in macchina tra i Mozzi Elector e John Talabot, uno dei miei, non so, anche lì il battesimo della minimal semi di Sascha Funke grazie al Festival di Benicassim, e che insomma ha sfondato con il 2008 con Berlin Calling, che appunto racconta la stressantissima vita del DJ che appunto non si ferma mai un attimo, passa da una console all'altra senza neanche rendersi conto del giorno notte, cioè che giorno è, e che appunto poi ci sono delle persone che non riescono a reggere tutto quanto, come Avicii, sebbene insomma non ci piacesse la sua musica, insomma non è bello, insomma su un ragazzo così giovane e che ha sfondato, insomma decida di togliersi di mezzo. E Sky and Sand è stato il pezzo insomma più famoso, insomma quando ho conosciuto Johnny, ciao Johnny, non facevo altro che ascoltarla. E poi vabbè, le sue collaborazioni con suo fratello Fritz, che poi penso che sia la voce dei suoi pezzi. Ma insomma, cosa stiamo ascoltando? Una cosa interessante è questo ultimo album del 2018, si chiama Parts of Life, dove ci sono una quindicina di pezzi di stili diversi, perché lui appunto ha fatto tante cose di tanti stili diversi, generi diversi, e quindi Parts of Life non sono pezzi in ordine cronologico, nel senso che il primo pezzo può essere Part 15 e l'ultimo Part 1, ma stiamo ascoltando Part 2 e Part 7 perché appunto ci sono sembrate le fasi della sua vita e della sua vita musicale che più ci aggradano. Quindi Part 2 seguito da Part 7. Infatti non mi sono neanche accorta quando siamo passati dall'una all'altra e sta per finire. E passiamo a un altro tedesco, invece di tutt'altra parte, ovvero la bassa Bavaria, Lorenz Brunner, in arte Recondit. Caruccio sembra. Sì, è famoso per, insomma, fare dei pezzi abbastanza tesi, abbastanza cupi. Suo ultimo album Dämmerlicht, ma l'ultimo EP, vedi, Wikipedia non è aggiornato come me, appunto l'ultimo EP Silk del 2019, e stiamo ascoltando Paul. EP e singoli a partire dal 2011, quindi molto prolifico, 5 album. Lui suonerà alle 3 di notte live. Cresciuto in una zona rurale che spesso è stata la sua ispirazione, quindi appunto il panorama della bassa Bavaria. E ha iniziato a fare musica, come succede spesso, in una cameretta, insomma, un piccolo studio casalingo. E poi nel 2009 si è trasferito a Berlino, ovviamente. Non vediamo l'anno di nascita, ma mi sembra abbastanza giovane. Dove si è fondato la sua etichetta nel 2011 e ha cominciato appunto a pubblicare con il nome, suo nome d'arte. Dei suoi EP più famosi, Caldera, credo che sia particolarmente apprezzato a Cacchione. Ciao Cristiano. Per una varietà di generi anche che si riflette, come fanno molto spesso i DJ, hanno diverse anime e le esprimono pubblicando su etichette diverse, cioè ci sono dei pezzi che non pubblicherebbero mai per un'etichetta, ma invece per un'altra che si addice di più. Il suo stile infatti può essere sia ambient che deep house, che techno e acid techno. Cioè addirittura il suo genere è stato definito John Carpenter House, meditative techno. E questo è uno dei pezzi che ho, uno dei primissimi pezzi che ho sentito per nella preparazione di questa trasmissione, mi piace molto. Sono i Red Axis, che l'ultima volta mi hanno deluso tantissimo, non so, probabilmente era un DJ set, ma proprio mi ha fatto veramente brutto. E Questo invece è il loro ultimo EP 2019, sì, Sound Test. E questo pezzo che mi piace molto, l'ho già detto, si chiama Shabbat Shalom, che è un gioco di parole, perché poi ovviamente dico, ma significherà qualcosa, perché avevo in mente l'espressione Shabbat Shalom, che è buona giornata, un augurio di pace, appunto, che fa riferimento appunto al Shabbat, ovvero il sabato della festa ebraica. Ma non è Shabbat Shalom, ma Shabbat Shalom. Allora, cos'è lo Shabbat? Lo Shabbat è un altro nome del servizio segreto israeliano. Quindi Shabbat e pace non è che vanno molto bene insieme. Mi farebbe piacere se fossero antisionisti. Antisionisti. Si badi bene. Nome ufficiale Shabbat dello Shin Bet, che è appunto come la CIA americana. Ma ce la ascoltiamo a palla? Questa danza, cioè, potresti veramente ballare, cioè, le danze tradizionali israeliane ebraiche. Un duo formatosi nel 2010, Dori Sadovnik e Niv Arzi, di base a Tel Aviv, ovviamente. Bellocci. Sono conosciute e hanno cominciato a scrivere canzoni insieme dall'età di 14 anni. E all'inizio il primo gruppo che hanno formato era un quartetto di psychedelic rock. Altro pezzo bellissimo che quando mi capita metto sempre è Sipor, che è un EP dell'anno scorso, 2 anni fa. Dove si sente una voce che all'inizio è, diciamo, manipolata elettronicamente, non si capisce bene cosa dice, e poi si capisce sempre più che dice I need techno, I need trance, I need house, I need house, I need techno, I need trance, house, I need techno. E poi qualche frase in in ebraico, che non sapremo mai cosa significa, ma il pezzo è molto molto figo, come questa Shabbat Shalom Red Axis, stessa sera degli Acid Arab, come le altre due volte che li ho visti. E invece adesso passiamo ad un musicista, un produttore che cui noi insomma abbiamo avuto i nostri fulminei innamoramenti, e su due piedi, insomma nomi assolutamente sconosciuti, decidiamo di fare le nostre monografie. E questo è successo nel 2015, l'album si chiamava Howl, era già il terzo in realtà, uno degli artisti di punta, adesso si può dire, visto che il suo ultimo album dell'anno scorso, Persona, è stato uno di quelli che ha ottenuto voti più alti dalla stampa specializzata. Stiamo parlando di Rival Consoles. E noi, con l'occhio, anzi l'orecchio lungo, c'è un nome di punta della Erased Tapes, ovvero l'etichetta di Nils Fram, dei Chiasmos, di cui è parte Olafur Arnalds stesso. Ryan Lee West, da Leicester. Fatto dei remix per John Hopkins, Vessels, ovviamente Nils Fram e Olafur Arnalds, Max Cooper, insomma quella scuola lì. Molto profondo, molto a volte malinconico e intenso. Sarò molto contenta di vederlo. Insieme a questa bellissima Dreamer's Wake, da sentire una dietro l'altra, un 1-2 potenzialmente devastante, Sans Abandon, seguita da questa Dreamer's Wake. Ma Sans Abandon l'abbiamo già sentita, ma perché? Ah sì, era uno dei contributi esterni nella trasmissione dedicata lo scorso autunno a DJ Richard. Anche lui è autore di una elettronica abbastanza un po' scura, malinconica, lenta, e quindi ci stava benissimo. Ovviamente farà un'esibizione live. Abbiamo lasciati fuori veramente pochissimi di artisti, infatti abbiamo lasciato fuori un altro DJ greco, Ronnie Iron. E avremmo potuto lasciare fuori anche il prossimo artista, se non altro perché le sue ultime produzioni sono veramente molto molto molto jazz, che quindi non è il nostro genere preferito, jazz che ha avuto un ritorno enorme, tantissimi giovani musicisti, infatti questo è stato anche riflesso per esempio al Primavera, c'erano tanti ensemble, gruppi, artisti, solisti, virtuosi. Però, essendo appunto uno dei nomi più internazionalmente conosciuti che io ho visto a Roma, probabilmente, abbiamo messo anche perché non il suo ultimo lavoro, che è totalmente jazz, ma questo, sempre del 2019, Shigeto, si tratta di Shigeto, Shigeto EP, e io penso sempre che quando tu intitoli un lavoro con il tuo nome, magari è il lavoro, sono i pezzi che più ti rappresentano, non c'è molto da dire, non c'è da cercare un altro titolo. E questo pezzo che stiamo ascoltando si chiama Pusher, significherà qualcosa anche questo? Nome d'arte di Zachary Shigeto Saginaw, non saprei assolutamente come pronunciare il suo nome, è un sino americano orientale, parte originario di Ann Arbor, Michigan, è appunto un suono molto vario, influenzato dal jazz, che pubblica principalmente per la Ghostly International, e vedo Associated X, cioè ha collaborato, ha avuto a che fare con gli School of Seven Bells, cosa che non sapevo, gruppo che purtroppo non esiste più, abbiamo dedicato una puntata a loro in occasione dell'ultimo album semi-postumo. E adesso mi rendo conto che è una line-up per il 99% europea. C'è chi c'è di americani? Cioè, c'è Anna che è brasiliana, di un altro continente. Veramente non c'è nessuno oltre a Shigeto e Anna. Ci piace. Perché vabbè, diciamo, una scena elettronica che primeggiano gli europei, è sempre stato così. Finisce Pusher Shigeto EP 2019. Hai un romanzo nel cassetto che non riesci ad uscire? Hai solo il cassetto e non sai come aprirlo? Dal 6 ottobre torna il laboratorio pratico di scrittura a cura di Massimo Vitale. 8 incontri aperti a chiunque abbia voglia di mettere per iscritto la propria fantasia. Ogni domenica negli studi di Radio Città Fujiko in via Zanardi 369. Scrivi a labscrittura@radiocittafujiko.it o chiama 338-9948-047. Stiamo arrivando alla fine. Prima puntata di Maite FM, 11ª stagione, dedicata al Sonar di Atene, 11-12 ottobre. appunto presentazione sul sito di questo festival con un logo che è praticamente Autobahn dei Kraftwerk, ci dice che Sonar di Atene rappresenta il vibe unico della moderna capitale greca, un incrocio tra Oriente e Occidente, un melting pot di influenze radicate nella storia. La città è lo sfondo perfetto per una line-up che combina, diciamo, macchine da guerra dell'elettronica e invece artisti più sperimentali che vengono da tutto il mondo, con le eccezioni che abbiamo appena detto, presentando anche allo stesso modo artisti locali, sia già affermati che emergenti. Ma avevo dimenticato che Tim Hacker è canadese. E Tim Hacker stiamo ascoltando. Iniziò a comporre musica modulando il white noise, il rumore bianco, dopo averlo registrato da fonti radio. In attività ormai dal 96, anche perché appunto è nato nel 74. Con una produzione appunto molto molto sperimentale. Noi l'abbiamo conosciuto nel 2011 con Rave Death 1972, poi Virgins l'anno dopo. L'ho visto al Club to Club, è stato molto difficile seguirlo perché era veramente molto rarefatto, molto astratto, molto invisibile, completamente sommerso da del fumo, delle luci rose che rendeva appunto impossibile vederlo. Non che sia fondamentale, però se già la musica un po' non ti cattura. E quindi appunto siamo dalla parte non del DJ che fa muovere il culo, ma del compositore, insomma, un po' più alto, che ha anche collaborato con One Tricks Point Never e ha fatto una doppietta di album 2018-2019. Uno si chiama Conoio e un altro si chiama Anoio. Stiamo ascoltando due pezzi da Conoio: l'intro di In Death Valley, poi seguito da Is a Rose Petal of the Dying Crimson Light. Ispirato da molteplici visite di Hacker in Giappone, dove ha collaborato con una band, Tokyo Gakuso. Con cui appunto ha suonato in un tempio alla periferia di Tokyo. Ci ricorda un po' Sakamoto. E sfuma così la delicatezza venata d'Oriente di Tim Hacker. Siamo veramente alla fine, sarà molto molto emozionante vedere un gruppo che poi era un duo, che poi insomma è la creazione, la visione principalmente di una persona, di un musicista, ovvero James Lavelle, che abbiamo seguito veramente dall'inizio. Poi c'è stata l'esplosione con quella meraviglia di album con delle collaborazioni prestigiose, che è stato poi il debutto, Science Fiction, con Rabbits in the Headlights, con Tom York, con un altro pezzo, se non mi ricordo il nome, ma era bellissimo pezzo con Richard Ashcroft, sempre delle partecipazioni. Ultimamente anche molto presente la voce di Ian Ashbury, dei Cult, Uncle, UNKLE. In realtà nasce nel 94 appunto dal capo della etichetta Mowox, James Lavelle, insieme a Tim Goldsworthy e il produttore giapponese Kudo. E poi arriva DJ Shadow, per cui appunto la fama della band cresce in maniera esponenziale. Poi in Science Fiction c'era anche la partecipazione di Mike D, dei Beastie Boys, di Mark Hollis e i Foo e Badly Drawn Boy. Ultimamente appunto ho fatto un album, anche dei remix molto molto belli, The Road Part 1, ma noi stiamo ascoltando l'ultimo del 2019, The Road Part 2/Lost Highway, con tantissime featuring e partecipazioni, anche perché è un disco doppio corposissimo, anzi formato da due parti e poi tutta una serie di strumentali con generi molto diversi, ma essendo insomma una trasmissione dedicata a un festival che generalmente ci farà ballare, abbiamo deciso di mettere questo, che poi è l'ultimo pezzo di chiusura della seconda parte, Touch Me, che vede la voce di Leila Moss, ovvero la voce dei Duke Spirits. Questo synth sotto un po' badalamenti. Disco molto molto eclettico, c'è la partecipazione di Mark Lanegan, di Ian Asbury, appunto di Tom Smith degli Editors, dei Big Pink, e siamo arrivati alla fine del pezzo di Yankol cantato dalla voce dei Duke Spirits, ovvero Touch Me, pezzo di chiusura di The Road Part 2 Lost Highway. Diamo due ultime informazioni, se nel caso insomma vi convincete ad andarci o ci sta già ascoltando, Alberto, Giovanni e Serena, dovevate essere all'ascolto sulle venues, ovvero i luoghi del festival. Sonar Club è un palazzo di importanza storica e architettonica trasformato appunto in una venue, ovvero in un locale per eventi culturali importanti, che è praticamente un'arena molto grande, indoor, quindi non all'aperto, ma ovviamente nel cuore del centro della città. Poi c'è la Sonar Hall, che è insomma la sala concerti principale di Atene, nell'area appunto di Gasi, aperta nel 2010, che appunto ha sempre ospitato DJ di fama mondiale e concerti dal vivo e performance teatrali. Poi invece Sonar Lab, che guarda l'Acropoli e che appunto ti dà la possibilità di ballare guardando, appunto avendo questa vista spettacolare su una delle più famose attrazioni turistiche, vabbè, attrazioni turistiche ok, ma testimonianze storiche del pianeta. E finiamo con Waracles, mi verrebbe Waracles, invece no, Waracles. Questo pezzo si chiama Detached Motion, un album che si chiama Orchestra, un DJ, produttore francese, che si chiama però Kevin Rodriguez. Kevin Rodriguez ha iniziato a studiare il piano a 3 anni, poi ha studiato al conservatorio, ecco per cui composizione di respiro orchestrale con un tocco elettronico. L'album non mi è piaciuto molto, lo trovo un po' maraglio, ma questo pezzo lo dedico a Giovanni perché appunto è melodic techno, melotronica, come piace tanto a Giovanni. E è il suo primo album, uscito a marzo di quest'anno, ma invece le release in forma di EP o singolo sono numerose, una ventina dal 2009. Ed è così che l'ordine alfabetico ci fa concludere questa galoppata nel programma di Sonar Athens Athinai prima edizione. E in pauroso overtime finiamo e finisce così la prima puntata dell'undicesima stagione di Mighty FM. Chi vi ha parlato e tenuto compagnia e infastidito è Claudia Mighty Mau. Ho la sensazione che questo appuntamento diventerà bisettimanale, ma non 2 volte a settimana, ma bensì quindicinale. Buona serata da Claudia Mighty Mau.